Forse cambio tutto, prendo e poi mi trasferisco in una città lontana in cui non t'avrò ancora mai visto. Sei forse sbaglio tutto, se da te non riesco ad andare via o essere quella persona che il tuo cane crede che io sia. Mentre passano le settimane, tu no, non mi riesci a passare. Vorrei ricominciare. E so che è uno sbaglio, ma vorrei rifarlo per tante mila volte. Sai che forse anche di più. Ti cerco nelle altre, che la notte sembra notte, ma tu sei tu. E senza una domenica con te, il lunedì è insopportabile. Ti cercherò tante mila volte, no, comunque non mi basteranno mai. Non basteranno mai. Forse ti ricordi di come facevo l'amore, di quando ti contavo i nei, poi li univo i miei, una costellazione. Sto mondo va così veloce, quante cose cambiano al secondo, ma mi stupisci perché tu sei ancora quella del primo giorno. Mentre passano le settimane, tu no, non mi riesci a passare. Vorrei ricominciare. E so che è uno sbaglio, ma vorrei rifarlo per tante mila volte. Sai che forse anche di più. Ti cerco nelle altre, che la notte sembra notte, ma tu sei tu. E senza una domenica con te, il lunedì è insopportabile. Ti cercherò tante mila volte, no, comunque non mi basteranno mai. Non basteranno mai. Io non lo so più dove sei, ma colorerò sempre i giorni tuoi. Prometto però che ti cercherò tante mila volte. Sai che forse anche di più. Ti cerco nelle altre, che la notte sembra notte, ma tu sei tu. E senza una domenica con te, il lunedì è, beh, insopportabile. Ti cercherò tante mila volte, no, comunque non mi basteranno mai. Non basteranno mai. No, no, non mi basteranno mai.